Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. E allora, la giornata economico-finanziaria, che poi vuol dire l'attacco all'Italia, come è andata? È andata in chiaro scuro, meglio in scuro chiaro, perché era scuro, scurissimo l'andamento di borsa fino a metà giornata, come molti di voi già sanno, perché la borsa perdeva, è arrivata a perdere quasi oltre il 3%, con i titoli di nuovo in calo, nessun tipo di rimbalzo, nemmeno di carattere tecnico. Poi sono arrivate, e ve la racconteremo, vi racconteremo la cronologia, diciamo, sono arrivate alcune dichiarazioni, una nota della Presidenza del Consiglio, le dichiarazioni del Ministro Tremonti, e insomma l'idea che la finanziaria sarà approvata in tempi molto brevi, l'accordo già in nuce ieri anche con l'opposizione, visto che il PD, l'UDC e l'Italia dei Valori hanno deciso di presentare gli emendamenti alla finanziaria assieme, che è un modo per in qualche modo avere non quattro o non tre o quattro proposte, ma un'unica proposta su cui lavorare. Beh, questo è servito alla borsa italiana per recuperare, tant'è che in questo momento Milano è l'unica borsa positiva. Attenzione, perché vedo già un messaggio che dice: ieri avete creato allarmismi che non servivano. Io veramente sono contento, perché evidentemente c'è qualcuno che vive in un mondo così, che piacerebbe anche a noi. Se quelli di ieri erano allarmismi, se i 300 punti di distacco con il Bund, che praticamente, se dovessero essere confermati, vanificano un'intera finanziaria. Io ricordo che noi paghiamo ogni punto percentuale, sono circa 6 miliardi in più, per cui insomma, di differenza col Bund, ogni punto percentuale in più sul nostro debito sono circa 17 miliardi all'anno in più. Se questo è allarmismo, benvenuto l'allarmismo. In realtà oggi la borsa ha girato e adesso guadagna lo 0,96%, solo Milano. Parigi perde ancora uno 0,70%, Francoforte l'1%, Londra meno 1,11%, l'America invariata. In realtà sia Parigi, ma soprattutto Francoforte e Londra, ieri avevano perso molto molto meno di Milano. Recuperano oggi bene i bancari. Lì c'è sicuramente la speculazione, come si chiama in gergo, in realtà qualcuno che va a comprare a prezzi più bassi. È molto semplice: UbiBank guadagna il 5,50, il Monte dei Paschi il 5,40, Unicredit il 5,11, Mediolanum il 4,40 e Intesa il 3%. C'è un vecchio detto di borsa che dice: vendere sull'euforia, comprare sul panico. Bisogna avere i nervi saldi, bisogna farlo per lavoro, ma non è un detto così così sbagliato. Parmalat meno 2, se lo si sa fare, perché comprare sul panico, bisogna capire se è vero panico, se è solo panico o se veramente la situazione è seria. Chi perde? Meno 3,92% Steam Microelectronics, meno 2,70 Atlantia, meno 2,60 Impregilo, meno 2,60 Fondiaria, meno 2,15 Buzzunicem, Enel meno 1,1 come Snam Rategas. L'1% lo perde Terna. L'euro è sempre sotto quota 1,40, 1,39 e 85, di nuovo una puntata che analizzerà nei vari aspetti quello che sta capitando. Ripeto, pensare che ieri sia stato un fuoco fatuo è un po' naif. I temi ci sono tutti, la spada di Damocle sull'Italia c'è, resta. Evidentemente l'iniziativa politica è servita a tamponare in questo momento. Vedremo domani cosa succederà, dopodomani, durante l'estate. Focus Economia non chiude, resta qui a accompagnarvi tutta l'estate. Allora, ancora, volete sapere come vanno anche gli altri titoli? Beh, sostanzialmente, oltre ai bancari, in recupero anche Fiat, più 3,21, Parmalat, più 2,60, come Telecom Italia, 2,20, lo dicevamo, il Banco Popolare, il 2% è il rialzo di Tods, l'1,5% quello delle Generali. 349-238-6666 per i vostri sms. E allora, il Gallo non lo metto per scaramanzia, nel senso che lo mettiamo quando veramente il mercato ha recuperato tutto il tonfo di ieri. non mettiamo neanche il gufo, facciamo una giornata in questo momento senza animali, ma con le notizie in breve. Allora, il petrolio, torniamo a raccontare anche le notizie classiche di questo programma. Il petrolio è sotto, ampiamente sotto i 100 dollari al barile, 94,6 dollari al barile. L'oro è in rialzo invece a 1549 dollari l'oncia. A maggio il deficit commerciale americano è tornato a crescere a 50 miliardi, la differenza tra quanto di dollari, chiaramente tra quanto l'America esporta e quanto l'America importa. Il default, comunque ha detto il segretario del Tesoro Timothy Geithner, non è un'opzione, alzeremo il tetto del debito e ha ricordato sempre il ministro del Tesoro americano che il presidente Barack Obama punta a un accordo molto ampio sul piano di riduzione del deficit e del debito. L'effetto tsunami e terremoto in Giappone ha avuto un effetto chiaramente anche sulle stime di crescita del paese, più 0,4% contro uno 0,6% precedentemente atteso come stima del PIL giapponese tra il 2011 e il 2012, ma Tokyo questa mattina ha risentito soprattutto sui timori europei. L'Asia registra chiaramente dopo, in questo caso, quello che è accaduto, tant'è che Tokyo è arrivata a perdere l'1,43%, ma per poi recuperare nel finale, ma soprattutto Hang Seng e quindi Hong Kong ha perso il 2% ieri in borsa. E non è un mistero che, lo ha detto anche il governatore della Banca del Giappone, Masaaki Shirakawa, che le turbolenze finanziarie e la crisi del debito in Europa possono rappresentare un rischio anche per l'economia giapponese. Veniamo all'Europa. Secondo il quotidiano spagnolo ABC, 5 casse di risparmio spagnole e una banca rischiano di essere bocciate agli stress test che l'Unione Europea sta effettuando per verificare in sostanza la solidità patrimoniale in situazioni di difficoltà. E Bruxelles ha fatto sapere, dentro il comunicato finale oggi della riunione dei ministri delle finanze all'Ecofin, che nel caso in cui alcune banche non dovessero passare gli stress test, l'Unione Europea prenderà una serie di misure che coinvolgeranno il settore privato, ma che in caso di necessità prevederanno anche il sostegno dei governi. È ancora più chiaro il commissario europeo agli affari economici e monetari, Olli Rehn, ha detto che chi non passerà gli stress test dovrà ricapitalizzarsi, quindi portare più patrimonio in cassa. E quanto alla manovra italiana, Olli Rehn, appunto commissario agli affari economici e monetari europei, ha detto che la manovra italiana è in linea con l'obiettivo di un pareggio del bilancio entro il 2014, che è quello promesso, oltre che chiesto, all'Europa. Concerning Italy, I want to say that as regards fiscal policy. Per ciò che riguarda l'Italia, vorrei dire che il pacchetto di misure pluriennali di consolidamento fiscale è accolto con molto favore. È in linea con le raccomandazioni per raggiungere un pareggio di bilancio nel 2014 e accelerare la riduzione dell'elevato debito italiano. La Commissione europea guarda con favore e sostiene il serio sforzo di consolidamento dei conti pubblici italiani, che è in linea con le nostre raccomandazioni. La Commissione naturalmente monitorerà attentamente la realizzazione delle misure adottate. And we will of course closely monitor the implementation of these laws. Rido perché c'è un ascoltatore che vorrebbe che io sparassi una fucilata al gufo e ai suoi fans. Allora, a parte che è un atto assolutamente anti-animalista, ma che colpa ne ha il gufo? Come dare la colpa della febbre al termometro, per favore. Andiamo avanti. Allora, adesso vorrei raccontarvi, per iniziare poi a ragionare dello scenario, ripeto, un conto è raccontare la cronaca e un conto poi capire la tendenza. Ieri c'è stato un attacco indubbio all'Italia e anche all'euro in generale. Il caso francese ce l'ha raccontato molto bene l'ex presidente del Consiglio Prodi in diretta, spiegando che anche la Francia si rende conto di quello che sta capitando, però la cronaca è un conto, altra cosa è il ragionamento più di medio termine, se riusciamo a farlo. La cronaca inizia questa mattina con chiaramente l'apertura di Milano alle 9. Eh sì, Milano apre, perde subito l'1,90%, si preannuncia una giornata nera perché si sperava in un rimbalzo dopo le rassicurazioni e invece niente, alle 9.20 Milano sprofonda letteralmente, meno 4%. E chiaramente lo spread con i titoli tedeschi, questi termini che molti di noi sono stati obbligati a imparare in questi mesi, la differenza tra quanto rende un'obbligazione italiana rispetto a un'obbligazione tedesca e quindi quanto è considerato più a rischio finanziare il debito italiano rispetto a finanziare il debito tedesco, continua a aumentare, tocca un nuovo record, ma soprattutto arrivano gli spread a 347 punti, che vuol dire un livello quasi spagnolo, con un rendimento dei BTP sopra il 6%, lo 6,02%. Avere aumentato di 300 punti, ripeto, vuol dire perdersi tutta la manovra finanziaria praticamente, se dovessero essere confermati questi. In realtà poi lo spread si muove, ma se noi dovessimo viaggiare per un anno con una differenza di 3 punti percentuali rispetto a quanto costa la Germania finanziare il suo debito, ci siamo mangiati la manovra da 40 miliardi. Non solo, vanno a record anche i credit default swaps, ossia quanto è alto il premio della polizza assicurativa se tu ti vuoi assicurare contro il rischio paese perché hai comprato obbligazioni, vuoi farti anche una polizza, paghi un premio. L'ammontare di questo premio, come avviene per la polizza auto, dipende dal rischio che è incluso nell'assicurarsi. Questo rischio, questo premio è salito a 325 punti contro i 300 di ieri. E per dare un esempio, era salito a 325 il premio pagato per assicurarsi sul rischio Italia, la Grecia è a 2500 punti, che vuol dire che il mercato scommette per l'88% che la Grecia fallisca, la Spagna è a 373 punti, vicino a quello italiano, il Portogallo è a 1160 punti, l'Irlanda a 1000 punti. E poi cosa succede? Questa è la situazione alle 10:30, pesantissima come situazione. Poco dopo il ministro Tremonti, alle 10:22 per essere precisi, lasciando la riunione dell'Ecofin, dice ai cronisti: sto andando a Roma a chiudere il bilancio dello Stato. Una frase laconica, ma sentiamola. La discussione prosegue su altri temi. Io sto andando a Roma per chiudere il bilancio dell'Italia. No, giusto per far capire, questa dichiarazione arriva alle 10:22, alle 10:43 la borsa di Milano ha già recuperato quasi 2,5 punti percentuali, cioè sta perdendo solo l'1,32%, e anche la differenza tra quanto rende un nostro BTP e l'equivalente tedesco si riduce, cioè da 347 punti scende a 330 punti. Però si chiude nel frattempo alle 11 di mattina l'asta per i bot annuali. Noi abbiamo collocato 6 miliardi e 750 milioni di euro di debito oggi e aumentano i rendimenti dal 2,14% al 3,67%, siamo ai massimi dal 2008. Tra l'altro giovedì prossimo vi sarà una nuova asta di BTP. Però a quel punto il mercato ha capito che Tremonti sta andando a Roma a chiudere, che c'è un accordo politico, e lo dico non come valutazione personale ma perché un'ora dopo già Milano viaggia verso la parità e i titoli bancari iniziano ad andare in positivo. Unicredito alle 11:30 guadagna il 3%. L'ulteriore svolta sia poco prima delle 2, alle 13.56, battono l'agenzia la notizia che il Presidente del Senato Schifani ha annunciato come la conferenza dei capigruppo del Senato approverà entro la metà giornata di giovedì la manovra finanziaria. In questo modo la Camera potrà approvare la manovra entro domenica. C'è un vivo apprezzamento da parte del Presidente della Repubblica Napolitano mezz'ora dopo, e a quel punto leggo le ore e i minuti esatti perché è importante per far capire come si è mossa oggi la borsa. A quel punto Milano, che perdeva alle 9.20 4%, va in positivo e inizia a guadagnare lo 0,3%. Scendono sempre in quei minuti anche, scende la differenza con il Bund tedesco, lo spread torna sotto i 300 punti. Poi alle 14.25 c'è una nota del Presidente del Consiglio Berlusconi che dice: la crisi richiede un iter rapido e misure più forti, il momento non è facile, i conti sono sotto controllo e migliori di altri, ho piena fiducia sull'impegno del governo e dell'opposizione, dobbiamo essere uniti nell'interesse comune, la maggioranza è coesa, il governo è stabile e si può contare sulla responsabilità delle parti sociali, le nostre banche sono solide. E questo annuncio, ossia che la Commissione Senato entro metà di giovedì approverà la finanziaria, poi passerà e entro domenica sarà approvata alla Camera, il fatto che Berlusconi abbia citato anche la sua fiducia nell'impegno del governo e dell'opposizione, fa sì che Milano alle 2.30 stia già recuperando lo 0,7% con le banche, nel caso Unicredito, che non credete che guadagna a quel punto il 4%. La differenza con il Bund tedesco, lo spread, si riduce a 287 punti. E arriviamo praticamente ad ora in cui Milano guadagna l'1,16%, mentre Parigi continua a perdere lo 0,80% come Francoforte e l'1% come invece perde Londra. E poi le dichiarazioni di poco fa del segretario del PD Pierluigi Bersani, che ha detto: noi per l'Italia facciamo la nostra parte, siamo fiduciosi, ma non credo che Berlusconi sia un elemento di fiducia né per l'Italia né per il contesto internazionale. Allora, la cronaca della giornata di borsa si ferma qui. Adesso vorrei parlare dei risparmi degli italiani, che detto così sembra anche quasi una beffa, ma non lo è. È uscita infatti l'indagine annuale della Fondazione Luigi Einaudi e assieme al gruppo Intesa San Paolo sul risparmio, sulle scelte finanziarie degli italiani, però chiaramente parliamo anche di attualità. 349-238-6666 per i vostri sms. Presidente Andrea Beltratti, Presidente del Consiglio di Gestione di Intesa San Paolo, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, Presidente, dovevamo parlare del vostro rapporto, e ne parliamo per carità, però insomma lei, oltre che economista, presiede il Consiglio di Gestione di una delle due più grandi banche italiane, Intesa San Paolo, e subito vorrei un suo commento, se vuole anche sulla giornata di oggi, così cerchiamo di far capire, visto che poi dobbiamo spiegare agli ascoltatori come si muovono i risparmi, le scelte di risparmio. Giornata di oggi, se lei dovesse dare un titolo, che titolo darebbe? L'inizio della stabilizzazione, speriamo almeno. Guardi che questo glielo registro, poi. No, speriamo. speriamo. E comunque la coincidenza tra dichiarazioni politiche e andamento dei mercati era tempo che non si vedeva, a mio avviso, dai tempi, diciamo, della crisi 2008-2009 qua, e poi anche l'anno scorso con la Grecia, quando tutti guardavano a Bruxelles, o no? Sì, è vero, c'è da dire che una parte rilevante della volatilità di questi ultimi giorni e delle cadute, chiamiamole pure col loro nome, dei mercati azionari, dei prezzi e delle obbligazioni sono state anche causate da elementi politici e anche, a mio modo di vedere, dalla difficoltà che si è registrata in Europa di mettere insieme un intervento pubblico con il coinvolgimento degli operatori privati che si coagulasse attorno a un piano credibile di rientro del debito per la Grecia. Quindi certamente la politica ha avuto il suo impatto, direi anche in sede europea. No, questo perché per anni abbiamo detto che poi i mercati ormai globalizzati guardavano molto poco la politica. Mi sembra, Beltratti, che sia a livello di politica europea, quindi Bruxelles, che poi di singole politiche nazionali, proprio dalla crisi sia arrivata un'indicazione anche forte, e ripeto, non mi riferisco solo all'Italia, ma anche al caso greco e irlandese dell'anno scorso, nel rapporto tra mercati, andamento dei mercati e decisione della politica. Certamente, del resto questo tipo di situazione e le evidenze e le problematiche degli ultimi anni sono sempre di più problematiche globalizzate, legate anche alla governance europea, in cui sono rilevanti i problemi fiscali, i problemi della politica monetaria. Quindi in un certo senso la tendenza generale che noi abbiamo visto a partire dal 2008-2009 è per un nuovo predominio dei fattori macroeconomici, e quindi nell'ambito di questi fattori macroeconomici la possibilità di prendere delle decisioni coerenti di politica monetaria e politica fiscale ha un ruolo assolutamente centrale. Quindi non è sorprendente, credo che sia una tendenza che rimarrà ancora per un po'. Ecco, adesso veniamo alle scelte degli italiani, però lei è stato nostro ospite altre volte, proprio sempre con questa ricerca, e alla luce di quello che ha appena detto, non le ha fatto un po' specie, sia come economista, sia come presidente del Consiglio di Gestione di Intesa San Paolo, una banca penalizzata fortemente ieri, oggi recupera, insomma ieri come tutte le banche italiane, non le ha fatto un po' impressione che il problema più grosso del debito ce l'hanno gli Stati Uniti? Prima leggevo le dichiarazioni del segretario del Tesoro Timothy Geithner, però la speculazione, la scommessa, diciamo, se terrà o no l'euro o terrà o no il debito dei paesi euro, è tutta sull'Europa, che non ha avuto un peggioramento, diciamo, netto, a parte la Grecia e l'Irlanda, ma contano poco. Insomma, il vero tema, mi sembra di capire, è l'America riuscirà a far passare una manovra o andrà in default. Eppure lì non specula nessuno. Beh, diciamo, c'è una differenza strutturale fra il caso degli Stati Uniti e il caso europeo per quanto riguarda poi singoli paesi come la Grecia o come il Portogallo. Nel caso degli Stati Uniti, come nel caso dell'Inghilterra, rimane, oltre a una politica fiscale indipendente, anche una politica monetaria indipendente, con la possibilità quindi che le compravendite di titoli obbligazionarie abbiano un impatto poi stabilizzatore sulla valuta, sul tasso di cambio, che contribuisce a riequilibrare i flussi. Nel caso di problemi di specifici paesi, come può essere la Grecia, il Portogallo, l'Irlanda, invece c'è una catena di propagazione delle tensioni che è diversa, un po' più complicata, perché in quel caso non c'è un elemento riequilibratore associato alla valuta. Quindi in un certo senso il fatto che l'area dell'euro sia un'area molto ampia, in una situazione di difficoltà di conti pubblici di vari paesi, in assenza di una governance consolidata e abituata a gestire le crisi, beh, da questo punto di vista certamente ha qualche elemento di comprensibilità il fatto che l'attenzione sia stata attirata in Europa. Dopodiché sappiamo anche, non è la prima volta che lo vediamo, che a volte i mercati si consolidano nel seguire una certa idea e quindi ignorano un po' tutto il resto, e indubbiamente i dati che lei cita sul debito pubblico e sul disavanzo pubblico degli Stati Uniti, molto importanti, credo che prima o poi faranno ritornare l'attenzione anche sul caso degli Stati Uniti. Allora, sì, sta dicendo in sostanza che anche i mercati e i gestori di fondi comuni, da quelli pensione ai fondi più speculativi, seguono le mode, insomma, cioè, va di moda. In parte diciamo sì, c'è una certa evidenza che ci siano anche elementi di moda, che quindi, specie nel breve periodo, ci siano elementi di volatilità eccessiva che non sono necessariamente legati sempre alla migliore aspettativa dei fondamentali. Allora, nel frattempo voi siete usciti con il rapporto appunto il risparmio e le scelte finanziarie degli italiani nel 2011. Dopo il metro pubblicità mi racconta altri dettagli, ma anche in questo caso il titolo qual è? Immagino che la Banca d'Italia, ce lo racconto ormai da un paio d'anni, si sta erodendo il risparmio degli italiani, e quando si erode il risparmio anche gli investimenti, diciamo, diventano più difficili, se non impossibili. Ma il titolo di quest'anno? Il titolo di quest'anno evidenzia la continua ricerca della sicurezza, che è un trend che ormai ha luogo da vari anni e che avevamo commentato insieme quando io ero responsabile della ricerca proprio con lei in varie occasioni. È interessante osservare che questo obiettivo della sicurezza diventi sempre più importante. Come notava il coordinatore della ricerca nella sua esposizione, si è messo insieme alla forte ricerca per la liquidità. Questo ci dà un quadro secondo cui in effetti gli italiani sono in questa fase molto avversi al rischio, consolidando appunto una tendenza di medio-lungo periodo. Del resto, anche data la volatilità dei mercati, dati gli eventi che abbiamo visto confermati negli ultimi mesi, ecco, certamente è difficile dare torto agli italiani sul fatto che sia opportuno mantenere il più possibile in sicurezza il loro patrimonio. Dopodiché, certamente è vero che il risparmio è in una certa misura in attenuazione e fra l'altro la ricerca di quest'anno quantifica nel 9% il tasso di risparmio oppure nel 6% a seconda che la base di riferimento sia composta da tutti i risparmiatori oppure soltanto da coloro che riescono a risparmiare, però ecco, si evidenzia anche utilizzando dati della Banca d'Italia che il patrimonio finanziario netto delle famiglie italiane è pari a 2.570 miliardi di euro, pari al 180% del nostro prodotto. Quindi vero certamente che anni di difficoltà economiche, di prospettive meno certe, hanno acuito negli italiani il senso appunto di incertezza, la necessità di risparmiare che purtroppo ormai viene raggiunta soltanto da una famiglia su due, però fortunatamente ricordiamoci che partiamo da una base di patrimonio finanziario netto molto elevato e anche qua in termini comparativi, se guardiamo ai numeri assoluti, troviamo che secondo le stime internazionali il patrimonio finanziario netto in Italia è superiore a quello in Francia, in Germania, in Spagna, secondo all'Inghilterra e agli Stati Uniti. Quindi è vero che la situazione… Il patrimonio finanziario netto, Beltratti, è la differenza tra cosa? Il patrimonio finanziario netto è la differenza tra il patrimonio finanziario delle famiglie, quindi le attività finanziarie, il debito dello Stato, i depositi, le obbligazioni e così via, e il debito delle famiglie, debito sostanzialmente per la casa e per attività di consumo. No, perché la cosa interessante, adesso non possiamo parlarne oggi, però ne parlammo a suo tempo, l'Italia a livello europeo ha portato avanti anche un ragionamento che non è passato in tutta la sua forma, a dire... È vero, noi abbiamo un debito pubblico altissimo, il più alto, 120% del PIL quasi, però abbiamo anche uno dei risparmi privati più alti, lei ricordava giustamente il 180% del PIL. Ci sono paesi che hanno un debito più basso del nostro, ma un risparmio anche più basso. Allora, non puoi mettere assieme mele con pere, Beltratti, a meno che uno non faccia la patrimoniale, però è anche importante ricordare quando un paese, pur avendo un grosso debito pubblico, ha delle famiglie, tutto sommato con ancora alti risparmi privati nella stabilità complessiva del paese. Dopo il meteo mi racconta ancora due o tre scelte che avete rappresentato e individuato oggi tra le famiglie italiane. 349-238-6666 chiede un ascoltatore: ma lei, dopo tanti anni di programma, crede veramente che il recupero di oggi sia frutto di qualche frase della politica? Sì, lo credo, perché uno poteva continuare a vendere oggi o comprare. A un certo momento, dopo alcune dichiarazioni, la cronologia ve l'ho letta minuto per minuto, il mercato ha girato. E c'entrano le frasi della politica? Come se non c'entrano? Meteo. ...17:40 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. A chi si fosse appena messo in collegamento, diamo anche un aggiornamento della borsa, più 1,20%, Milano oggi la migliore, anzi l'unica positiva, dopo una mattinata di panico vero di nuovo, con un meno 4% alle 9,20 di mattina, Parigi chiude con un meno 0,80, Francoforte meno 0,90, Londra sta perdendo lo 0,93%, l'America è invariata. Presidente Beltratti, già ci ha raccontato un dato importante, che comunque la difficoltà c'è nel risparmiare, una famiglia su due, ma resta un risparmio importante in questo paese, che dovrebbe essere anche un ragionamento per alcuni guru della finanza. Quando attacchi un paese come l'Italia, lo diceva ieri Romano Prodi qui in diretta, insomma, attacchi un paese che ha uno dei risparmi rispetto al PIL più alti in Europa, attenzione, per cui non è come attaccare altri paesi. Veniamo a quello che avete trovato. La impossibilità di risparmiare è sicuramente più alta nel mezzogiorno. E come va anche il clima di fiducia? Cioè, quando avete intervistato le persone, gli avete chiesto se secondo loro la crisi è terminata, sta terminando, insomma, ormai alle spalle, le risposte? Sì, ma dunque c'è una domanda nel rapporto che riguarda proprio la valutazione sulla durata della crisi, ed è piuttosto interessante notare che soltanto il mi pare 10-12% degli intervistati affermavano durante i mesi di febbraio e marzo, che sono il periodo in cui sono state fatte le domande, che la crisi era effettivamente alle spalle. Quindi piuttosto interessante notare che già alcuni mesi fa gli italiani avevano una certa consapevolezza della situazione e dei rischi che forse anche alcuni grandi professionisti non avevano. Quindi da questo punto di vista mi sembra che sicuramente gli italiani abbiano una certa consapevolezza, magari possono sfuggire dei dettagli tecnici, magari alcuni termini sono incomprensibili, ma mi sembra che certamente per quanto riguarda i macro trend gli italiani riescano a capire che cosa sta succedendo. Eh sì. Ancora, voi avete registrato praticamente oltre al 45% degli intervistati che dice che la crisi non è terminata, solo uno su cinque non ha cambiato il suo tenore di vita, un altro uno su cinque ha rinviato l'acquisto di una casa e quasi la metà è stata costretta a intaccare i risparmi. Questo che conseguenze ha avuto sulle scelte di investimento? Beh, credo che sia l'altra faccia di quello che dicevamo prima, quando stavamo commentando l'importanza dell'obiettivo della sicurezza e della liquidità, che avviene a scapito della ricerca del rendimento anche di breve periodo sul mercato. Certamente si tratta di due fatti che sono molto coerenti tra di loro, vale a dire è abbastanza normale che in una fase di difficoltà che può richiedere una riduzione del risparmio, addirittura un azzeramento del risparmio e in alcuni casi una riduzione del tenore di vita e addirittura una riduzione del livello del patrimonio, è normale che in quelle occasioni si diventi più avversi al rischio e si cerchi quindi innanzitutto di proteggere maggiormente il valore del portafoglio. Quindi si tratta di eventi che io credo siano coerenti tra di loro e che sono anche coerenti con quello che è successo sui mercati. E coerente anche la cosiddetta fuga nella liquidità, nel senso che voi avete scoperto che uno su tre lascia sul conto addirittura il 30% della propria ricchezza finanziaria. Esattamente, e addirittura c'è un dato nel rapporto che io credo sia molto interessante. Nel rapporto si nota che il 63% delle famiglie non possiede alcuno strumento finanziario oltre al normale rapporto di conto corrente, quindi questo certamente indica quanto la ricerca della liquidità sia importante, questo coerente con la ricerca della sicurezza, la ricerca della liquidità nell'ambito del patrimonio, e certamente ci dice che in periodi normali si tratta di una gestione del risparmio e del patrimonio che non è efficiente, almeno alla luce di quelle che sono le teorie standard, che però noi sappiamo, e anche lei l'ha ricordato varie volte in questo programma, effettivamente per quanto riguarda gli ultimi 10-12 anni non sono stati in grado né di comprendere né di prevedere. Quindi alla fine gli italiani hanno una gestione del patrimonio che è totalmente inefficiente in teoria, alla luce delle teorie, ma che si è dimostrata certamente molto resistente alla luce del decennio terribile che abbiamo. È la saggezza del contadino, Beltratti? Come? È la saggezza del contadino? No, perché è interessante che lei che mi dica, che lei fa presidente appunto del Consiglio di Gestione di Intesa San Paolo, economista, mi dica, gli italiani non hanno seguito la teoria economica, adesso io la forzo perché sono un giornalista malizioso, non hanno seguito la teoria economica, non hanno seguito le indicazioni dei gestori e comunque hanno fatto bene, perché con quello che è successo meglio tenere i soldi ogni tanto sotto materasso. Mi dica un'ultima cosa, lei si attende un effetto negativo da quanto previsto in finanziaria, ossia l'aumento del costo che costa tre volte in più di quello che è il bollo che si paga su dossier titoli, con conseguenze paradossali per cui uno che investe 10.000 euro in bot tra tasse, bollo, commissioni arriva ad avere come guadagno netto 10-12 euro all'anno? Beh, certamente è una misura che può avere degli effetti distorsivi. Credo anche, e non voglio difendere questa misura particolare e non voglio neanche entrare, perché credo ci siano persone molto più competenti di me e con maggiori strumenti per poter decidere che cosa fare e che cosa possibile fare, soprattutto al di là di che cosa è desiderabile fare. Però credo che certamente in una situazione come questa, data la necessità di fare una manovra e magari se possibile anticipare qualche saldo già al 2011-2012, qualsiasi misura a sé stante abbia degli effetti negativi, deleteri e così via. Si tratta di inquadrarlo in un contesto generale, quindi bisogna vedere in un certo senso che cosa è meno dannoso. Grazie, grazie al Presidente del Consiglio di Gestione di Intesa San Paolo, Andrea Beltratti. Grazie a voi, grazie, saluti agli ascoltatori. Allora, io capisco le tensioni, ma c'è anche chi chiede di eliminare da questo programma il meteo e il traffico, ma per favore, insomma, anzi, il traffico adesso lo diamo. Devo ribadire, visto che ci sono molti messaggi al 349-238-6666, che è vero che le banche, la banca centrale ha comprato titoli, è vero che le banche, alcuni dicono che le banche italiane si sono messe a vendere titoli francesi e tedeschi, tutto quello che volete. Ma andare contro il mercato in generale, contro l'umore comune, è sempre molto pericoloso. La borsa ha girato, e soprattutto a Milano, e ha girato in positivo quando sono arrivate le indicazioni dalla politica. Mi dispiace chi pensa che in realtà ci sia tutto un complotto di altro genere, e faccio anche notare, sono tutti i dati che trovate su Sole 24 Ore, che lo spread, cioè la differenza tra noi e la Germania, o meglio il fatto che l'Italia sia stata considerata sempre più rischiosa, questo spread è iniziato a aumentare dopo il risultato sulle amministrative, prima ancora dei ballottaggi, poi è aumentato con il risultato sul referendum e poi ha fatto il botto in questi ultimi due giorni, cioè venerdì, due giorni di borsa, venerdì e lunedì, quando le inchieste che riguardano l'ex braccio destro del ministro Tremonti, Marco Milanese, hanno indebolito la figura del ministro all'economia. Questo non è un giudizio, sono fatti. Traffico. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso commentiamo la borsa al di là dell'andamento comune. Ripeto, Azimut più 8,11, Banca Popolare di Milano più 7,32. Piccolo inciso, se un titolo un giorno perde il 10 e il giorno dopo guadagna il 10, non va in pareggio. Chiuso. Recupera, ma non tutto. Unicredito più 5,90, Ubibanca più 5,50, Monte dei Paschi più 5,20, Mediolanum più 4,20, Intesa più 3,30, e vado sui bancari, Banco Popolare più 2,5, Mediobanca più 2%. Poi c'è Fiat più 3,60, scusate, Parmalat più 2,50, Mediobanca più 2%, TODS più 1,90, Telecom più 1,80, Pirelli più 1,5%. Chi perde? ST Microelectronics meno 3,80, Fondiera Sai meno 3%, Atlantia meno 2,70, Buzzi Unice meno 2,70 anch'essa, Impregilo meno 2,40, Enel meno 0,92%. Allora la borsa. Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Allora Livia, al di là delle banche, insomma, abbiamo raccontato tutta la puntata a questo. CIR e Mediaset. Sì, allora per quanto riguarda CIR, allora il titolo ha chiuso in territorio positivo dopo aver perso ieri oltre il 7%, quindi visto il crollo generalizzato ieri della borsa milanese, le azioni non erano riuscite a beneficiare della notizia positiva relativa al lodo Mondadori, quindi alla condanna Fininvest a pagare 560 milioni di euro, e ne ha beneficiato oggi. Inoltre bisogna ricordare che proprio oggi Niccolò Ghedini, che è il legale del premier Silvio Berlusconi, ha escluso categoricamente un'ipotesi allo studio di legge per evitare questo pagamento, e ha detto che Fininvest pagherà, e ha aggiunto speriamo poi che riavrà i soldi indietro quando la Cassazione farà giustizia, quindi il titolo ne ha beneficiato. Per quanto riguarda invece il titolo della Galassia Berlusconi, quindi Mediaset ha chiuso in rialzo, ha segnato un più 0,69%. Allora, no, vedo dei messaggi che ogni tanto, io non ho mai detto che bisognava aspettare a coinvolgere Marco Milanese, ho detto semplicemente che le tensioni politiche sulla tenuta del governo e della maggioranza sono nettamente dal punto di vista cronologico correlate con l'aumento dello spread tra i titoli italiani e quelli tedeschi. Andate a vedere com'era lo spread prima delle amministrative e seguite passo per passo cosa è successo al governo. Insomma, sempre opinioni su tutto. Vabbè, andiamo avanti. Livia, almeno ci sei tu oggi, no, nel senso, bravissimi tutte le altre colleghe, dico oggi rispetto ad alcuni ascoltatori. ST Microelectronics, meno 3,85%. Sì, allora bisogna dire che allora tutto il settore tecnologico oggi ha chiuso in calo in Europa, ha perso l'1,9% circa. Per quanto riguarda ST, finora il titolo si era mantenuto sulla parità, in particolare dall'1 luglio, da quella data, quindi in 6 sedute il FTSE MIB ha perso circa il 10,8%, quindi in realtà oggi i realizzi hanno colpito maggiormente un titolo che aveva perso meno degli altri nelle scorse sedute, quindi ha perso il 3,85%. Bene, dai, io continuo a ridere perché c'è gli ascoltatori oggi che... Allora, c'è uno che scrive: dalla sua analisi si deduce che il mercato teme l'arrivo al governo della sinistra. Ma chi cavolo l'ha mai detto? Il mercato teme che, essendo l'Italia un paese con un alto debito, l'instabilità politica in un paese fragile, ce l'ha spiegato Sapelli, Daniel Gross, Prodi ieri, teme l'instabilità politica, vuole governi forti in questo momento e ampiamente condivisi sulle manovre. Ma per favore, io capisco che fa caldo, ma fa caldo per tutti. Livia, ancora Atlantia in calo del 2,72%. Sì, allora, bisogna dire che il titolo è in un trend negativo dal 29 giugno. Le azioni quindi hanno risentito nelle scorse sedute della famosa introduzione della norma nella manovra che prevede il taglio all'1% della quota deducibile degli ammortamenti finanziari. In realtà poi qualche giorno fa le azioni avevano recuperato perché appunto dovrebbe essere presentato un emendamento a questa norma, quindi che un emendamento che eviti la stangata sulle concessioni, però il risultato è che comunque il titolo anche oggi ha perso il 2,7%. Allora, nel frattempo ringrazio per averci raggiunto in collegamento Giovanni Tamburi, il nostro ospite altre volte, un uomo che ha ampiamente previsto la crisi, quindi diciamo gufò da solo, è presidente, amministratore delegato della Tamburi Investment Partners. Buonasera, dottor Buonasera. Tamburi. Poi ampiamente le chiederò altri commenti. Vorrei solo capire una cosa: lei oggi ha comprato? Sì. Oh, posso sapere che cosa? No. No, vabbè, però ha comprato. Certo. E ieri ha venduto? No. Quindi ha solo comprato oggi? Anche ieri. Ha comprato anche ieri? Sì. Ma perché si compra sul panico e si vende sull'euforia o perché ha fatto un altro ragionamento? Ma innanzitutto sicuramente per chi fa il trader, non nel mio caso, ma comunque a volte comprare sul panico e vendere sull'euforia è una buona cosa. Per chi come me è un investitore di lungo termine, quando ci sono dei titoli che conviene comprare perché sono considerati titoli giusti, ben selezionati, ben valutati, si approfitta dei momenti in cui la gente butta via tutto per comprare ancora di più che non nei momenti normali. E secondo lei chi ha venduto ieri? Ma hanno venduto tanti fondi che hanno un'ottica di breve termine, tanta gente condizionata da appunto visioni più tattiche che strategiche, hanno venduto fondi che sono collegati a benchmark, che sono collegati a strumenti derivati o strutturati o di altro tipo, che in qualche modo erano obbligati a seguire quest'onda di vendite. Poi ci sono tante case internazionali che hanno dato nei giorni scorsi un segnale di sottopesare l'Italia e per cui o sottopesare l'Europa, e per cui anche coloro che hanno avuto l'ordine da New York o da Shanghai o da Hong Kong di sottopesare l'azionario europeo o magari anche italiano, che hanno dovuto vendere. Io stamattina ho parlato con un bravissimo gestore che ha avuto riscatti di fondi dall'Oriente e per cui lui è stato obbligato a vendere cose pur essendo convinto che non avrebbe dovuto vendere, ma perché semplicemente aveva meno soldi. Certo, se la casa madre te lo ordina. E mi dica solo sì o no, Tamburi, poi il resto dell'intervista dopo il GR, ma le dichiarazioni politiche sono quelle che hanno cambiato rotta al mercato secondo lei oggi, sì o no? Non lo so. Onestamente non per non rispondere, ma non lo so. Mentre sono convintissimo a quello che ha detto lei prima, e cioè che le amministrative sono state in emergenza per la percezione sull'Italia, è verissimo. Allora, ne riparliamo con lei, con Livia Zancanera e poi con Mario De Aglio dopo il GR. 349-238-6666 per i vostri sms. 18 e 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora vorrei concludere con Livia Zancaner, la cronaca della giornata borsistica, e poi continuare con Giovanni Tamburi invece sull'analisi della situazione in questa giornata che, ripeto, era partita malissimo, lo dico chi si fosse appena messo in collegamento, con Piazza Affari che è arrivata a perdere il 4% e si è chiusa bene, tutto sommato, più 1,20%, unica borsa positiva, dopo le dichiarazioni del ministro Monti e anche la nota del Presidente del Consiglio. La corrispondenza cronologica è indiscutibile. Livia Zancaner, Fondiari Assai, meno 2,95%. Ieri bene, uno dei pochissimi titoli che ieri è andato bene. Sì, infatti, ieri il titolo ha guadagnato un 1,6% in un mercato che ha perso più del 3%. In realtà le azioni quindi oggi tornano a scendere dopo appunto una breve battuta d'arresto della vigilia, quando le azioni hanno chiuso in controtendenza, mentre nelle quattro giornate precedenti il titolo aveva registrato un ribasso del 26% circa. Bisogna ricordare che venerdì si concluderà l'aumento di capitale da 450 milioni di euro, mentre la negoziazione dei diritti si è già conclusa. Ancora ultimo titolo, vediamo anche i migliori e i peggiori oggi. In assoluto il miglior titolo è Unicredit Italiano sul risparmio non convertibili, più 10,60, il Credito Valtellinese più 9%, secondo il miglior titolo, e Azimut, l'abbiamo detto, più, Azimut Holding più 8,11%, TAS più 7,60. Peggior titolo Ross meno 9%. E come si è mossa risanamento? Sì, allora risanamento. Perché c'è una notizia su Santa Giulia, prego. Sì, infatti il risanamento ha chiuso in rialzo del 3,7% circa. Ieri si è tenuto il CDA, quindi il Consiglio di Amministrazione, che ha dato mandato all'amministratore delegato di andare avanti con le trattative per la vendita appunto dell'area Santa Giulia, la cordata guidata da Stefano Stroppiano. La valorizzazione del sito è compresa tra 850 milioni e 1,2 miliardi di euro, quindi questa è la notizia che ha messo le ali al titolo e gli ha consentito di chiudere in rialzo. Grazie, grazie a Livia Zancaner, Radio Corriere Sole 24 Ore. Torniamo a parlare di questa crisi, della crisi che ieri ha attaccato anche venerdì l'Italia soprattutto. Oggi molti di voi, vedo, sono scettici sul fatto che la politica possa aver mosso i mercati. Io vi ho solo raccontato la cronologia delle dichiarazioni di oggi e i movimenti di borse. Allora parliamo di cos'è questa crisi. Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà. E oltre a Giovanni Tamburi ringrazio anche il professor Mario De Aglio, che insegna economia internazionale all'Università di Torino, editorialista della Stampa. Buonasera professore. Buonasera a lei. Allora, lei ha comprato professore? Oggi no. No, io non faccio molte operazioni di borsa. Giusto per sapere. E anche lei, la domanda che ho fatto prima a Giovanni Tamburi, secondo lei la politica c'entra nel recupero della borsa di oggi? Direi che sì, secondo me questa crisi ha tre facce, le tre facce sono collegate tra di loro. Una è la faccia finanziaria, quella che vediamo in maggiore evidenza, la seconda è la faccia dell'economia reale, che viene fuori una volta ogni tanto, la terza è la faccia politica, che viene fuori soltanto in casi eccezionali, ma può provocare una rottura. Tutte e tre si influenzano a vicenda in questo momento. Visto che prima Giovanni Tamburi ha già risposto, noi notiamo come dato di fatto che lo spread tra il titolo di Stato italiano e quello tedesco è iniziato a aumentare, quindi l'Italia a essere considerata più a rischio, a dover pagare di più per finanziare il suo debito dopo le amministrative. Secondo lei quello che temono più che il tipo di governo è l'instabilità del governo, cioè là dove poi c'è spazio e praterie per la speculazione? Io credo che a loro del governo interessi soltanto la manovra. Solo Tremonti? Tremonti o chi per lui, insomma. Comunque una manovra che dia affidabilità sia esterna, cioè la quantità delle cifre, sia interna, cioè la faccia di chi la deve fare, portare avanti. Giovanni Tamburi, visto che lei insomma di lavoro gestisce uno dei fondi più importanti di private equity, fa il banchiere di investimento, però ha anche una grossa esperienza come investimento diretto sui mercati. Secondo lei non è troppo rischioso andare a attaccare l'Italia per poi attaccare l'euro, cioè usare l'Italia come porta di ingresso per poi andare a attaccare l'euro? Cioè, è rischioso per chi lo fa, dico. Tamburi, mi sente? Sì, sì, benissimo. Ecco. Io non credo che sia stato un attacco all'Italia, all'euro, questa cattiva speculazione che si è organizzata e che ha cominciato a sparare contro noi o la moneta unica europea. Io credo che ci siano state delle tali dimostrazioni a livello europeo e purtroppo ancora di più a livello italiano di incapacità politica, concordo con quello che il professor De Aglio ha detto un attimo fa, di interazione delle tre facce, che alla fine la gente si è messa a vendere i titoli. Abbiamo avuto gli avvertimenti di Moody's, abbiamo dimostrato che la politica europea non è stata neanche in grado di affrontare in maniera organica, rapida ed efficace il problema greco, e per cui i gestori si sono un po' stufati e hanno cominciato a vendere i titoli, ma non con una cattiveria da speculatori per il gusto di vendere ieri, guadagnare e ricomprare oggi, semplicemente perché è una merce, la merce titoli azionari e obbligazionari europei e, ripeto, in particolare anche italiani, che non dava più quell'affidamento che poteva dare prima, per cui, come ho detto anche prima, tanti gestori di fondi si sono messi a vendere. Ma no, perché io vedo che i bookmaker danno, se alla domanda se uno volesse investire esisterà ancora l'Unione Europea nel 2021, è a 1,03, mentre chi dice se uno volesse scommettere sulla fine dell'Unione Europea paga 10 volte la guadagnerebbe 10 volte la scommessa, che risulta per i bookmaker meno probabile. Le chiedo però, Tamburi, lei ha detto che oggi ha comprato, ieri ha comprato, ma comprerebbe anche nei prossimi mesi? Ma certo che comprerei, cioè, come io poi a questa trasmissione l'ho detto decine di volte, quando uno è un investitore di medio termine, selezionando i titoli a prescindere dall'andamento della singola giornata, titoli buoni, validi, aziende eccellenti, eccetera, anzi approfitta di questi momenti per comprare ancora di più, per cui non è una questione di prossimi mesi o di oggi, è questione che se l'azienda va bene e continua ad andare bene, tra l'altro ci sono moltissime aziende italiane, tendenzialmente con proiezione internazionale, che vanno bene, e per cui perché non comprarle? Anzi, si approfitta di questo. Quando nelle varie crisi precedenti la gente era bloccata, non pensava mai che in tempi così rapidi, crisi del 2001, crisi del 2008, eccetera, sarebbero state risolte così rapidamente. Dopo il fallimento Lehman, tanta gente pensava, e tanti l'ho sentiti anche a queste vostre trasmissioni, che sarebbe caduto il mondo capitalistico. Non è caduto nulla, si recupera. Io per esempio sono di quelli che sono convinti che nella seconda parte di quest'anno tutti i mercati azionari del mondo recupereranno in maniera sensibile. Avremo un autunno, secondo me, buono per i mercati azionari in tutto il mondo. Poi sbaglierò, però. No, lei però già una volta mi dice che aveva sbagliato, e quindi che la rinvitiamo se così non capita. Però apprezzo anche l'onestà e il coraggio, e quindi non fare il cerchio bottista, il pesce in barile. De Aglio, poi veniamo ai rischi della tempesta perfetta, come ha scritto lei oggi sulla stampa. Ma mi dica una cosa. Secondo lei la telefonata della Merkel ieri a Berlusconi e questa dichiarazione l'Italia approvi il prima possibile la finanziaria è stato un commissariamento tedesco? In qualche misura sì, teniamo presente i forti legami dell'industria tedesca con l'industria italiana, nel senso che l'industria italiana è fornitrice dei tedeschi, teniamo presente che nei paesi europei non è che i governi si disinteressino di quello che succede giorno per giorno nelle industrie, e quindi una pressione, per carità, nei limiti delle regole, larvata se si vuole, ma molto efficace, molto seria, sicuramente c'è stata. Allora, dopo il traffico, l'ultima parte del programma, e vorrei sapere che cos'è la tempesta perfetta. Vedo che ci sono alcuni che sono interessati anche ai bookmakers, e va bene, perché scrivono al 349-238-6666, la fine dell'euro è data a 10, quindi insomma molto improbabile, mentre il mantenimento dell'euro a 1, e per quello che riguarda il rischio fallimento, l'Italia tiene, tra virgolette, è al 3,75, si paga la scommessa, però veniamo dopo la Spagna al 2,25, per cui insomma siamo i secondi favoriti sulla possibilità di avere rischi di fallimento. Belgio a 6, Cipro a 7, la Francia 150, la Germania 250, insomma forse anche dai bookmaker, visto come si muovono certi fondi, qualcosa si può imparare. Traffico e poi l'ultima parte del programma. Allora, ultima parte del programma, e insomma Mario De Aglio oggi sulla Stampa parla di una tempesta perfetta. Un'indicazione ce l'ha già data il professore, ma insomma, siccome la tempesta perfetta, oltre che essere un elemento meteorologico, è anche quello che è successo nel 2007, vorrei maggiori chiarimenti. Quando è che la tempesta diventa perfetta? La tempesta diventa perfetta quando ci sono diverse dimensioni di un problema che interagiscono l'una con l'altra sempre in maniera negativa. Quindi gli sviluppi della politica incidono negativamente sull'economia, gli sviluppi dell'economia incidono negativamente sulla finanza, gli sviluppi della finanza negativamente sulla politica. Quindi in questo caso è molto difficile tirarsi fuori, perché non si sa più su che cosa far leva. E da questa tempesta perfetta come si esce? Da questa tempesta perfetta si esce qualche volta con delle perdite. Per esempio la tempesta perfetta dell'economia americana ha portato Lehman Brothers. Allora, tagliando via in maniera cruenta, diciamo così, un pezzo dell'infezione, la situazione si stabilizza e questo perverso intrecciarsi di cause smette di esistere. Che non vuol dire che siamo guariti, ma vuol dire che non si aggrava più e si può cominciare una strada di risalita. Giovanni Tamburi, a parte che alcuni ascoltatori dicono lei è sempre ottimista come Ennio Doris, no, rifiuto io il paragone perché Doris è sempre ottimista. Giovanni Tamburi alcune volte ci ha spiegato quanto fosse pessimista in anni orsone, quindi me lo ricordo. Però al di là di questo, essere ottimisti, noi sappiamo che esistono i fondamentali di bilancio e lei dice: io guardo le aziende, vedo che ci sono medie e grandi imprese italiane che vanno bene, ci sono le multinazionali tascabili, l'export ha ripreso e quindi investo su queste aziende. Ma se tu hai, diciamo, il mercato contro, quindi l'idem sentire, l'opinione comune contro, è difficile anche per i titoli positivi andare bene, o no? Assolutamente, l'abbiamo visto in questi giorni, tanti titoli buoni, aziende eccellenti, multinazionali più o meno tascabili, sono andate male anche queste. All'ascoltatore che ha detto queste cose, ricordo che verso aprile o maggio mi permisi di dire avremo un maggio, giugno e luglio brutti di mercato a Radio 24, per cui onestamente era abbastanza prevedibile un momento brutto prima dell'estate. Secondo me il punto di svolta può essere i primi d'agosto con la decisione del Congresso americano sul plafond del debito, probabilmente un accordo lo troveranno, a valle di quella secondo me i mercati respireranno, anche perché i fondi di equity di tutto il mondo sono sottopesati sull'azionario, i fondamentali delle aziende sono buoni perché le aziende oggi si comprano a prezzi molto molto bassi e poi ci sono i cicli che in questo momento abbiamo avuto un ciclo particolarmente negativo aggravato negli ultimi giorni e secondo me il mercato, come si vuol dire, respirerà e per cui sia le aziende migliori ma anche altre aziende meno buone potranno beneficiare di questa situazione, perlomeno questo è il mio parere. E adesso l'ultima parte, che poi è una costante di questo programma in questi giorni, e cioè le accuse alla speculazione e a chi butta benzina sul fuoco della speculazione. Professor De Aglio e poi Giovanni Tamburi, c'è chi ha detto ai nostri microfoni, Luigi Zingales qualche settimana fa, attenzione a prendersela con la speculazione. La speculazione ha un avvoltoio, questo è vero, però gli avvoltoi, o le iene, chiamatele come volete, si muovono laddove sentono odore di carcassa, insomma di morte, non arrivano per caso, non arrivano sui corpi sani. Allora, professor De Aglio, è giusto prendersela con l'agenzia di rating? Uno, ed è la speculazione, diciamo così, l'untore in questo momento dell'attacco all'euro? No, qui dovremmo studiare bene, perché noi parliamo... E detto da un professore è già un invito pesante, diciamo. Prego. Però è importante farlo, perché noi parliamo sempre di mercato così, ma come è fatto questo mercato? Bravo. Quanti sono gli operatori di questo mercato che muovono le grandi quantità? E allora si va a vedere che in questo caso probabilmente i grandi operatori che hanno mosso la cosa sono 5, 6, 7, 10 al massimo. Allora forse bisognerebbe capire quali sono le motivazioni non generiche del mercato, ma di questi 10. In questo caso non possiamo escludere a priori che ci siano delle motivazioni politiche o di altro genere, anche se io non gli darei molta importanza, ma non possiamo dimenticare anche che ci troviamo in un momento in cui l'euro ha le sue difficoltà, ma il dollaro ha le sue difficoltà. Il governo americano ha sostanzialmente fallito la manovra di rilancio dell'economia e si trova ad avere un debito che deriva da questa manovra e non sa bene se il Parlamento glielo abbonerà o meno. Quindi l'operatore di borsa si trova a scegliere tra due debolezze, due monete deboli, diciamo, strutturalmente. Ha deciso che la più debole era l'euro e quindi ha sostanzialmente deciso di andare a vedere le zone di maggiore debolezza dell'euro e di togliersi da quel mercato lì. Su questo poi si possono innescare le speculazioni, si fanno strumenti finanziari apposta per, diciamo così, ingigantire questo movimento di uscita da una moneta e si ha il tempestone che è venuto fuori adesso. Tamburi, anche per lei, speculazione, agenti di rating, Monatti o in qualche modo fanno solo il loro lavoro? Ma sulla speculazione ho già detto una battuta prima, sì. Per cui non è certamente il cattivone da additare. Le agenzie di rating, diciamolo una volta in più, le hanno sbagliate tutte e continuano a sbagliarle tutte. Io sono convinto che con tutto quello che hanno detto le varie agenzie negli ultimi tempi, se il governo italiano avesse fatto una manovra seria 10 giorni fa, tagliando i costi della politica, mettendo le tasse ai SUV veri ma da 100 cavalli e non da 300 cavalli, tagliando le pensioni in maniera intelligente, eccetera, non saremmo in questa situazione oggi. Per cui la speculazione, che magari era pronta, che magari era lì per fare chissà che cosa, non avrebbe agito come ha agito. Abbiamo messo i tappeti rossi ai ribassisti e ce lo meritiamo purtroppo, perché ce la siamo voluta dal punto di vista politico e della politica economica. E allora, su questo vorrei concludere anche con Mario De Aglio. A questo punto la lezione da imparare è che cosa? È che qua occorre fare il governo, perché ieri Prodi ha negato che ci siano anche i tempi tecnici per fare un governo tecnico, oppure fare manovre ancora più credibili, oppure non mettere in discussione il ministro dell'economia? De Aglio, una delle tre, la busta numero uno, due o tre? Ma io non starei tanto a vedere la formula del governo, se tecnico o non tecnico, ma il governo deve essere percepito come credibile. E quindi probabilmente fare alcune delle cose che diceva Tamburi prima, cioè non si può prima dire io metto una tassa poi però torno indietro, che la metto solo sulla metà, poi faccio finta di non dartela, eccetera, perché è così che si perde credibilità. A un certo punto la manovra deve avere dei punti fermi su cui non si dice di no. Qualunque sia il governo, qualunque sia l'interlocutore che fa questo, ma acquista credibilità col suo comportamento. Se invece apriamo la fiera delle contrattazioni per fare la finanziaria, chi lo vede dall'esterno trae le sue conclusioni. Mi dite in una battuta, perché ho un minuto scarso, se secondo voi ci salverà l'Europa e anche l'Italia alla fine il risparmio cinese, cioè la Cina comprando debito europeo ci stabilizzerà? De Aglio? Sì o no? La Cina sta già comprando debito europeo, il nostro maggior acquirente di debito. Se io dovessi dire in maniera molto sintetica, direi sì. Se dovessimo essere veramente in gravissima difficoltà, e si farebbero pagare un bel prezzo sotto altre forme. Cioè comprandosi aziende italiane. Tamburi? Assolutamente sì, lo stanno già facendo, lo continueranno a fare. Ho parlato con dei cinesi anche questi giorni, stanno comprando pian pianino e magari, come dice il professor De Aglio, accelereranno presto. Per cui questo vaso di compensazione fra chi ha gran debito e chi ha gran liquidità verrà sistemato o presto o tardi, ma verrà sistemato. Allora, no, mi sono venuti i brividi a sentire De Aglio che diceva ci chiederanno qualcosa in cambio, perché poi lì potremmo farci un'intera puntata. Io dico anche agli ascoltatori che dopo aver avuto in queste puntate Daniel Gross, Fitussi, Giulio Sapelli, ieri Romano Prodi, oggi Mario De Aglio e anche Giovanni Tamburi, con massimo rispetto per tutti questi ospiti, venerdì invitiamo l'astrologa, così chiudiamo il cerchio in bellezza. Intanto ringrazio sia Giovanni Tamburi, presidente e amministratore delegato della Tamburi Investment Partners, sia il professor Mario De Aglio. Vi lascio le nostre pillole dell'economia, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.